10, Blecco. Hola. Attenzione 10, Blecco, so. Buonasera. Chi sei, Manuel? Questo è la radio che va. Sempre stai usando quello là, quello grande. Troppo vortici, bubù. Aiutalo a me quello lì. Ehi, adesso che ti ha preso quello nuovo, dammi l'altro a me. Dammelo qui. Ah, vabbè, ma l'altro ce l'ha. L'altro lo sta aggiustando, dai. Oh, vabbè, dai, tocchi, sto solo. Se me lo vuoi dare, non c'è problema. Quanto? Sì, sì, cazzo, le due zette, un cazzo del Saturnecco che è tre volte meglio di quello. È tutto in ferro, un fugato buco. Quello ci vale 100 euro, buco. Io lo so, ma è già adattata, dai, siamo radio che hanno già lavorato. Poi magari ci spendi quei soldi lì e non ti funziona più. Poi Roberto me l'ha pagato 100 euro, l'ho comprato da fuori. Uguale, marchiato Inter. Ehi, è da fuori, sì. Tu quanto hai pagato qua? Ah, io te ne offro 150, me lo dai. Va bene, no problem. Ma adesso cosa stai usando? Quello o il Galaxy? Ma dici, esci con le modifiche, con l'echo, hai un po' di echo, leggero. Ah, io avrei comprato prima l'antenna, prima di avermi comprato un altro apparecchio, e avrei risolto, e poi mi avrei preso l'apparecchio quando c'è vissuto, o no? E che antenna c'hai? Vabbè, ma che tipo di antenna è, non lo sai. Com'è quella che c'è già mangiato? Il manganello, là. C'era una Mantova 5 in vendita, turbo, l'avrei detto, boh. C'era una Mantova 5 turbo in giro, in vendita, nuova, usata poche volte, poi si è messo un'altra antenna perché ce l'ha autocostruita, adesso ce l'ha, te ne sei dimenticato, non avevi altri interessi, dai, ho capito, obiettivi, dai. Peccato, però visto che te la stai facendo bella la stazione, c'ha dei bei apparecchi, puoi mettere anche una bella antenna, scusa, non ti dico tanto, comprati quella, va benissimo, all'oggi invece 90 euro, non è che cosa sai, ma la Mantova non la fanno più, il fatto è questo, non la fanno più, nella Mantova 5, nella Mantova 1 e nella Mantova Turbo, se la trovi a qualche altro magazzino, se sei fortunato. Capito? Non la fanno più. No, se mai se non sarà nemmeno più aperta la Mantova, non ne ho più sentito di Mantova in giro. Se vai su internet c'è scritto esaurite, non ne ha più nessuno. No, adesso sono col 3009 con il microfono uguale a quello che ha comprato Tonino. L'hai sentita Tonino con quel Midland e col microfono amplificato che gli ho fatto comprare io? Lo so. E perché qua male va? Qua male va questo qua. Questo qua praticamente è del più 5, però questo qui è modificato. Questo qui gli ho fatto qualche lavoro, gli ho cambiato la capsula, però gli ho fatto alcuni accorgimenti. Cava. Sì. No, vanno bene. Se li poi rifare le modifiche vanno ancora meglio. Gli metti una capsula buona. Vabbè. Guarda che ci sono microfoni amplificati da Fusaro, c'erano quelli della ZG, NM93, quelli lì ce li hanno tutti, questa è una gazzata, quello che ha il tasto giallo, sì, io quello lì come lo compro lo vermicelli subito, perché giallo mi pare di giocattolo, se invece è fatto nero è più bello, già funziona bene, quello lì... Tutto è cambiare la capsula, li cambi la capsula e funziona tutti bene. Questo qua va benissimo, questo come stai usando adesso, tu adesso cosa c'è? Microfono originale. Io ce l'ho originale del Galaxy, ho perso brutto, no? C'ho proprio quello originale, ancora dentro la busta, nuovo. Oh, esce ben bene quello originale, sembra che sia amplificato. No, non te lo do perché poi se a me mi si guasta questo vecchio non so come fare. Vabbè, comunque se ci pensi quello là, dopo Giulio, quello che ti ho detto, di fare subito una cosa, le mettere le luci blu in tutti gli strumenti, luci blu, lo far diventare una cannonata. No. Compri i led, li metti la resistenza e via. I led, li compri i led, no? Da fusato, li compri i led blu e poi una resistenza per non farli partire, se non ti partono subito. Li metti questa resistenza, non so da quanto vada, non me lo ricordo, ma basta chiedere a fusato che lo dico. Attaccalo quello là a vedere come esce. Vabbè, non ti preoccupare, te le cambio io le lampadine quando me lo dai, non c'è problema. Ah, è vero, sì, gliel'ho detto io di mandare il microfono perché doveva provare se usciva, capito? Deve fare le prove, se no come ti va a provarlo, non lo può provare. Ma vedrai che già ne cava più, dice che gli hanno messo un bel di mani, lui dice che gli hanno fatto modifiche, un sacco di cazzate a mio padre. Lui ha detto che è più difficile trovare, riportarlo come era prima piuttosto che aggiustarlo, capito? Perché quando gli fanno le modifiche non sai che cosa gli hanno cambiato, devi stare a guardare pezzo per pezzo se è originale, capito? E la manopola è terra, cagata mezzo nera, mezzo cromata, ui. Non sanno usare manco la vernice per plastica, io lì l'avrei messo la vernice per plastica non ne sarebbe più uscita. Invece hanno messo la vernice normale e si scrossa, normale che sulla plastica non attacca. Figurati, è un coso, vabbè poi la vedrà chi la sta aggiustando se magari c'è qualche manopola da mettervi di quelle buone. E ho capito di quelle che vanno all'interno, ho capito. E invece quella lì non è l'originale, gira male, si muove, gatto, buh. Sarà tranquillo che già ci riesce, se ha più intende adesso vedrai che già glielo fa bene, sono sicuro, c'ho fiducia in lui, sono molto sicuro che ce la faccio. Vabbè, comunque se ci pensi, io te l'ho detto, se ti servono su due cose, devi comprare l'antenna grande, te lo prendo io, no? Ma non molto più là, no? A chi se no da voi mi ripendo. No, assolutamente no. Vabbè, ne ho di qua di apparati, tu ne hai, cosa vai di apparati, cosa ti diverti di chi apparati? Vabbè, ma è anche lui che io ho una bella stazione, se avessi avuto il numero te l'avrei fatto vedere, è piccola ma sincera, c'ha tutto, capito? C'ho diversi alimentatori, c'ho diversi microfoni. No, io le faccio girare tutte, non idrato una sola, le faccio girare, adesso per dire sto usando questa, poi posso usare quella col microfono, ne ho altre, va, c'ho anche il bagno, anche esce un bebè, oltre il gas e tutte le altre, sono tutte belle, là. Sì, da base sì, è per quello che le volevo un'altra base, ma tu non me lo vuoi dare, te la devo fare. Vabbè, fammi sapere, là. In questi poi già usato, mi viene l'Alzheimer. A parte, chi vuole entrare? E la macchina non ha gare, non senta nessuno. E sarà il solito lì, quello che ti ho detto l'altro giorno. Poi, e poi se mi passa che problemi non ne ho. Così meglio, ma guarda, uno, due, tre, prova. Già va bene, no? Se no poi ti faccio sentire l'altro, quell'americano. Sì, 3009, Superstar 3009, quello che è nero con tutta la parte cromata davanti. Ehi, sì, Natale non ha preso dopo di me. Niente. Adesso provo l'altro, ti faccio sentire l'altro, quello americano. Attenzione, canale 10, Gambio. Più fine, perché questo qui non è amplificato. Aspetta un secondo che mi attacco l'altoparlante esterno. Parla in americano, vedete? E io esco basso, sono vicino a un watt, uno. E già non so, devo controllare, vabbè, controllare. Ora questi giorni mi attacco il lineare, così esce. E dai, esce. Cavagava. Buonasera Costanzo. Ma che è più bella già questa modulazione? Più bella questa è KGAP. Ma non per l'eco, è per la chiarezza e la robustezza della radio, è più forte, sei più aggressivo. Questa è il Manium S980, cambio. fai a metterci il tanner che innesca? E che modificate aveva fatto? Dimmi, che mi interessa. Non lo so, comunque questo qua solitamente con i microfoni amplificati fischia perché è già forte di per sé, almeno che non lo usi con tutte le sue, è come se usassi una Ferrari col motore di 500, se tu vuoi usare la Ferrari col motore di Ferrari non puoi mettere l'amplificato perché questo c'ha il top gun che sarebbe praticamente come un processore che ti fa aumentare la radio. No, io ho preso il 980 perché avevano risolto il problema del frequenzimetro, che c'aveva un problema nel frequenzimetro, l'S9, o sparivano gli ultimi due numeri oppure camminava da solo. Ma perché sono cazzate? L'apparato deve funzionare bene, su di nuovo. Io l'ho pagato 500 euro questo qua, perché è quello che hanno, diciamo, migliorato le cose, capito? Che cosa? Non ho capito, cosa deve cambiare? No, è uguale. Sì, appena di eco. No, non è basso. Quello CTE, quelli sono quei microfoni che vendono 12 euro alla GBC. La ventanomission deve trovare un microfono di quelli. E anche quelli costa, per gli apparati omologati andavano bene quelli CTE. E per gli apparati quelli modificati, il CTE andava ben bene. È sempre uguale, boh, io non lo sento nessun cambiamento. Ehi, ma c'è troppa ripetizione. Cava. Ma tu come lo metti la modifica? Alzando la scritta ecco. Ma la modifica è fissa oppure puoi regolare la velocità, tutte queste cose qua? Adesso è tolto tutto. Prova a metterlo a mezzogiorno e 10. Il Mikey Gain a quanto ce l'hai? Prova a aumentare il Mikey Gain e metterlo quasi tutto. Mettilo quasi tutto giù. Non del tutto, ma appena di meno. Alza, va, stai migliorando, dai. Prova a fare un passaggio lungo, lì cambio. Adesso è regolato bene, dai. Costa, cosa ti sembra? No, non sta parlando, forse se ne è andato. E dove me lo dai? Ah, non è dare, vai in frequenza. No, già si sente bene, dai. Te la posso far sentire lo stesso, aspetta che sto preparando il telefono. Aiuto, papà. Un attimo solo. Pronto, sì? No, te la sto facendo sentire. Stasera no. Cosa ti stavo dicendo? No, va bene, non so se sia fedele come registrazione, però te l'ho fatta ascoltare, allora l'ho registrata dall'altoparlante esterno che c'ho, che ha i filtri, praticamente te l'ho fatta sentire dal microfono, capito? Così vengo a prendermi la radio. Zumpa, zumpa, zumpa, pa. Se vai un fenicottero, avanti, cosa ti ne vedi là? Che c'hai un elicottero adesso come baracchino, cosa ti ne vedi là? Intanto mi sapri chi si addratti. lo so. Cerca di fartelo un'altra stazione come si deve, no? Ti metti una bella antenna, perché poi c'è Porto Torres e non ti sente. C'è, cosa ti posso dire? Florina, Semuros, quella zona lì non ti sento, perché quelle antenne arrivano da qua al Lime, non hanno, solo in città le puoi usare, boh, basta. Invece ti prendi quella di Tunin e arriva da tutte le parti. No, la GBC. Ma è leggera, pesa poco, pesa 2 kg mi pare, è un materiale molto leggero, capito? Li devi dire la 5 ottavi perché ce ne sono di due tipi, c'è la 5 ottavi e c'è mi fai un quarto d'onda. Lo dici. Ti rabbini, ti prendi, mi vedi il baracchino e ti prendi l'antenna. E a chi non li spingi, ma pigliati quei due apparati che c'è, non li spingi su, li burumbe. Allora, per me si comincia dall'antenna, devi avere prima un'antenna buona, poi l'apparato. Se non c'hai antenna, non c'è, tu c'hai apparati belli, che da bui l'antenna non ti tende di su. Ma il tetto a tegole, prima di salire pigliati l'antenna buona. Tu sei Roma così piacciono, se non mi piace più. Vabbè, quando vengo a ritirarmelo, esci, che la pagava. E allora c'è Curicato. Se vedete ieri le feste che mi ha fatto il cane, tuia, il mio cane. Il mio cane musicheggia tutti, e tu ne l'ha fatto in vista. E io solito urlava, faceva forse sentiva l'odore dei cani. Ma sei venuto il fisioterapista qua, e un po' che non si romagna. Lui mi ha detto, mi non lo tocchi, mi lo metto in cucina, lo chiudo, e il fisioterapista mi fa, ascolta, dovresti portare le stampelle, e voi vedete, camminare con le stampelle, io le stampelle le avevo rimonite a chi non idrattavo più, sono dovuto andare in veranda a prendere un mobile che c'è, come ha aperto la porta, a sono uscito fuori, e ha cominciato a offiaggare a Edo, e sentivo, signore, venga, venga, che c'è il cane, mamma mia, l'ho trovato con gli occhi sbarrati, e ha detto, no, no, guardi, non le fa niente, lui prende e va a toccarlo, mamma mia, già mai si rubato. Perché lui, se ti conosce, ti dà il cuore, tu ti fa le feste tutto quanto, ma se non ti conosci non lo devi toccare. Poi c'è molta gente, no, che non ti chiede nulla, va, lo tocca, ragazzi, dopo si piglia l'uomo, se si umilia, perché il cane quando tu lo tocchi devi chiedere sempre al padrone, ma musica, è bravo, io dico sempre no, non lo toccare, che se non ti conosce questo qui è un po' particolare come caracolo. Avviso sempre. Poi a Natalino va a prenderlo all'ascensore. Va esce fuori e va a prenderlo all'ascensore quando arriva a casa. Mi va di tanti di civili, è che Natalino non è che sia molto, non ne fa molte, non lo accarezza molto. Ma lui in casa si sciugli quando lo vede. E anche io quando vado a casa di Natalino, Kurt mi fa le feste. Kurt con me è bravo. Lo sai cos'è? Che il cane, se tu lo tocchi in testa, è un segno di dominio, praticamente tu lo stai, secondo il cane, tu lo stai sottomettendo, capito? Esatto, solo dal padrone si fa toccare sopra. E galera dice, ridi che mamma ha fatto gli gnocchi. Ah, io entra, c'è dentro, tanto ti ho riconosciuto, cane morto. Ma è una gara, tanto noi ci sentiamo, non c'è problema. C'è qualcuno che si vuole divertire, lascialo giocare, se no fa peggio. Ma io ho visto che sento malanni, già visto. Oggi non ho sentito manco a Riccardino. Ecco. Chi è? Avanti. E non lo sai chi sono. Quando mai non mi riconosci? No, non l'ho riconosciuta. Chi è lì, scusi? Con chi abbiamo l'onore di parlare? Se abbiamo il baracchino uguale, per forza non mi riconosci. Ecco perché, come fa la voce? Ciao Natalino, mi hai sentito? In compagnia di Emanuele, non so se l'ascolto. Già l'ascolto, buonasera a te due, non so chi c'è perché ho appena acceso, dai. Comunque questo non è uguale al tuo. Gianni? Chi è? Avanti. Controllo la radio, com'è? Buona, aspetta. Ah? Un po' bassa mi sembra, boh. Sto usando quel microfono, No, va bene, dai, c'era quel volume basso io. No, va bene, Tony. Cosa hai fatto? Niente, sto usando quel 40 canali che mi ha dato Franco di Sosso. E più quel microfono che hai preso tu. No, va benissimo, Tony. Se vuoi puoi toglierli quell'affare metallico che c'è attorno alla capsula e metterli, perché da un certo senso di metallico, appena appena, però non tanto, e metterli il cottone oppure un vatto. Il cottone ci vuole, deve togliere quell'affare e mettere il cottone, riempirlo di cottone. Ed esce un burro. Sì, ma come fai a togliere quell'affare? Allora, metto nella quella parte grigia e a incastro. la devi tirare con una pinza e esce fuori, senza usare il cacciavite, se no rovini il microfono. Una pizzettina, dai. Con una pizzettina lo tiri e incastro, quello lì lo fai uscire fuori. Ho capito. E lì c'è la capsula. Meglio. Cazzo ne ha radio, io va. Vabbè, Tony. Vabbè, adesso è pronta quella radio per darla a me. Tony, travagliendi, lo sta facendo, avanti, la terza. Sì, cappa. Basta spingerla così, cric, che ne esce quell'affare con lì. Ne esce subito. Io ce l'ho quello che c'è in scatola, gliel'ho fatto lo stesso, l'ho riempito di cottone perché era attaccato all'altro, al Polmar, se vero non amplificava nulla, proprio per quel motivo lì, perché è chiusa mala sorte. L'ho fatto vedere a Manuele, quel baracchino lì, quel Polmar. E cosa ti ha detto? È che è bellino, solo che gliel'ho detto che c'è basso sia di watt che di radio. Questo almeno 3 watt già te li dà. Appagato. Vabbè, io sto girando e rigirando per vedere staff e da mettere nella macchina per non buccare, per vedere cosa si può fare. Io ho visto che ce ne sono parecchi di staff che puoi mettere senza buccare nulla. Non la buccare, non la macchina. Metti qualche cosa, qualche baracchino piccolo, magari dentro il cassetto te lo nascondi, vaga che cosa. Però non bucca nulla. Ah, se metto quello modificato, quello che va bene, mi devono sentire tutti. Ehi, se ci sta dentro dove ti ho detto io, e se no trovi una sistemazione. Attenzione Eugenio, se ascolti il doppio rum che chiama, cambio. Cambio. Ciao, ci sentiamo, buona serata, dai, avanti la terza. Ciao Eugenio, buonasera, ben sentito. Ciao Eugenio, il genio. Grazie a tutti, buonasera, allora, che si dice? Ma sono tre cose, Eugenio. Ti hai fatto 56 chilometri? E dove sei andato? E dove sei andato oggi? Cazzo ne hai io. Come ce l'hai le gambe, tranquillo. A me mi farebbe bene quello adesso, fare un po' di chilometri per la gamba. Sto facendo anche fisioterapia, ma accompagnato dalla bicicletta sarebbe il massimo. Ehi, non saprei dove metterlo, oggi il fatto è quello, non c'ho posto a metterlo. Io non è meno di casa con la bicicletta limpata, se è a casa. In terrazzo già ci sta, ma... non fa, dai. Me la prendo a noleggio. Beh già, com'è così? Prova. 1, 2, 3, prova di modulazione. Ha migliorato. Conviene, non so come era prima. No, era più metallica prima. Prova a fare un passaggio lungo. È più presente, Tonino. Controlla bene già che forse c'è il volume basso tu. È più presente la radio. Brecca Decker. K, registrato. Niente, vabbè, certo lo sto usando con l'altro baracchino che da 3 mesi, andiamo andare al limite, lo dica. Eia, va bene Torino, va benissimo, non bene, benissimo. Avanti Breck. Breck Decker, ho detto Breck Decker, non Breck, Breck Decker. Buonasera a tutti. Tonino, Gianni, il Natalino, poi chi c'è? Ah, Eugenio, ciao Eugenio. Ah, lo sono io, no, è un altro, non ti preoccupare. Dai Natali. Ma non è la radio Duia, giù. Sarà pur Duia chi sa radio, però non sei tu. Questo è il Cobra, È l'Olando. sì, lo so che non sono io. Sono io, truccato, dai. Buttalo via quell'apparecchio, sì. K, ma è un microfono normale? Beh, certo, che cosa deve essere? Amplificato, se non è normale è amplificato. Normale, normale. Gava, gava. E non puoi applicargli un microfono amplificato, non è qualcuno con l'attacco per quell'apparato, sentirlo. No, vabbè, potrei metterne più di uno, ma non cosa lo metto a fare. Tanto non lo uso quasi mai io questo. Ma io mettilo all'asta. No, niente asta, niente asta. Gava, gava, dai. Sto scherzando. Perché non va bene? Sì, va bene, va bene. Ma volevo sentirlo con una radio amplificata. Prima di comprarlo bisogna sentirlo in tutte le maniere, no? Ma io non lo sto dando. Cosa vuoi comprare? Mi è questo il microfono, meglio va. No, perché ne ho visto un altro su internet, hai capito, no? Perché lo stai dando tu. Ah, allora, ho capito. Ma questo meglio va il microfono. Ma è sempre uguale. Questo è un microfono normale con una batteria da 1,5. L'altro era normalissimo, quello tipo CTE con la rotellina, eccetera. Però senza alimentazione. Questo qui appena di più si sente, dai. Già va bene così. Insomma, è meglio questa radio, dai. Come l'ho detto io, non ho capito. Ho detto è meglio questa radio con questo microfono, vero già? A te ti fa la voce calda, ma è la tua voce, si addice. Se la prendi un altro, quel microfono non le amplifica. Invece per te è un'altra cosa. Vai, la voce grossa e ti va bene. No, sto usando il tablet, la calma, non più quello di prima. Ah, cavagava. Vabbè, comunque va bene lo stesso. Ero propenso di mettere quell'altro microfono che hai preso tu già, a metterlo qua, a posto di questo tablet. Prova. Per metterlo lì però, cosa stai usando? Il Galaxy? Per metterlo lì devi invertire i fili, quelli di sopra sotto e quelli di sotto sopra, in parallelo. Lo devi praticamente solo invertire, quelli di sotto sopra e viceversa. Lo so, perché se lo metto adesso mi dà la porta più fissa, capito? Non va bene. Io lo so, sono tutte cose che ho già provato, quindi le conosco. Avanti Giulio. Già niente, come mi senti adesso? Sempre bene, ti sento. E allora perché non me lo dici? E adesso come mi senti? Meglio? Sempre più forte, si da scoppiare. Esagerato, mamma mia, quanto sei maledetto. Quanto sei maledetto che mi stai facendo arrabbiare. Sto scherzando già. Oi Giulia. C'è la voce dell'orco. Oi Tonino. E allora. Ragazzi, vedi. Non ho capito niente. Non è chiaro con la radio. Io che non volevo ascoltare il chiaro, ascoltare più tre è un bijou. No, non si capisce molto bene. Non è abbastanza chiaro. A me va bene così, mi sento in cuffia, va bene. Sì, ma non è chiaro. Sì, va bene, perché è forte, ma non è chiaro, forse vuole regolata, non lo so. C'hai i tuni mica il microfono, ma sta a regolarlo tuni. Prova, come ce l'hai tu? Guarda che sto usando il tablet più 3000 tavolo mio. Ho capito. Vabbè, il tale si sa che è un po' metallica la voce, è sempre stata così. Infatti a me il tale non mi si addice, però Torino c'ha la voce grossa e c'è bene. Ma non è chiara? Beh, ma lui sta usando col microfono. Ah, ho capito. Ecco, quello che trovo a dire è diverso l'attacco, giusto? E Tyson, che fa già? Riposa come il padrone. Si fa ciò che fa il padrone. Hai visto la chiacchierata che ci siamo fatti stamattina? Dopo dopo, aspetta che mi sta innescando. Ecco. Adesso non innesca più. Dimmi tutto. Messaggio. No, non è che aperto oltre a questo, lasciare lì. Questa tavola che devi tagliare. Ehi cap, bisogna portarlo qui e ritirarlo, perché mica ti posso portare la cicola da macro fino a casa tua. Ehi, che ti ho detto fatto la caccia di cane. In base a misurare col metro quanti centimetri te l'avete tagliato. Ascolto, a te l'hai messo poi 2-4 squadrette in acciaio angoli, così non è più forte. All'interno vanno, ma non è. Ma se sono millimetri, manco lo vedi. E via, già ti faccio vedere come ho fatto io qua. Avanti, Giulio. Ah, c'è anche Natalino. Fai già Natalino dopo. Giulio. E il tuo? Me lo devo segnare, sì, glielo passo. Natali, ripeto. Natali. Come benissimo. Natali. E beh, Becchinotti. Oh, oh. Mi ascolti, buonasera. Sera. Sì, avete parlato in quattro, è passato Gianni. Buonasera a tutti. Sono tornato dalla Spezia e sono tutto accaldato. Ah, aspetta, faccio sentire i peli. Se ti sente Falcone. Oi, oi, oi, oi. Naso. Mi ricordo la rima. Comunque, buonasera a tutti, dai. Adesso mi devo sbollire dal caldo, quindi rimango in querenze. Ciao Gianni, Tonino, Giulio, sono entrato così a gamba tesa, l'altro forse Manuele, Ginko, adesso non mi ricordo. Ritenetevi tutti salutati, Natalino anche mi pare. Mettiti in frigo. Marco, ciao, sei in caldo, mettiti in frigo. Marco, vi sentito cordialità anche a te, che è preso il sole. Ehi, ma Gianni, cioè c'è il dito poco veloce, riprendete sempre in due, in tre. Chi ha parlato sotto, Giulio? Ok. Ma dovete rilanciare sempre col nome, se no succede sempre questo casino. Stavo dicendo, Marco, se hai caldo, perché non ti metti in frigo? Così almeno ti rinfreschi. Ehi, infatti adesso già mi sono mezzo spogliato, mi sa che ci scappa anche una doccia fresca. Sì, perché mamma mia, oggi 27 gradi erano il pomeriggio all'ombra, almeno al mio termometro, troppi per il mio fisico. E questo è niente, è esitta già agosto. Chiamato lì, la macchina mia mi segnava 33 gradi. Il cacchio, comunque la macchina ho notato era molto più calda, la macchina era un forno, anche lasciata un po' all'ombra, era allucinante, guarda, veramente allucinante, solo che il clima non lo metto perché mi distrugge, proprio mi sega la gola, proprio perdo la voce col climatizzatore. In effetti non è consigliabile, non è proprio per niente consigliabile, sarà pure utile perché rinfresca, però poi se uno poco è delicato di gola ti prende subito, Marco. Sì, guarda, quando prendo sbalzi di tipo entri dal caldo in un market freddo, oppure mi alleggerisco troppo, a casa c'è più fresco in confronto, mi prende il primo sintomo proprio alla gola, mi viene la voce afona. Questa è degli ultimi tempi, novità, capito? Prima non mi prendeva così. Va bene, Querix per me riprendete, ciao a tutti. Vai se ci sei, Natalino. Natalino 8, ci sei, Natalino 8. Non c'è Natalino 8. Avanti Gianni. Gianni è caduto dalla sedia, vai Tonino. Un attimo, Querix. Gianni, te l'ho mandato lì. L'hai ricevuto? No, più ru. È caduto dalla sedia, ha detto che è in quel ricchi. Siamo in una salute per i ripundi, sì, l'ho ricevuto, Tony. Compiatelo. Avanti giù. Ok. Sognatelo anche, oh Gianni, sognatelo anche, coricatelo vicino. Ma Ginko è andato via, No, che è qua. Manuel. Ok, Manuel. Va bene, oggi 32 gradi mi stava segnando la macchina, 32 all'una quando sono rientrato a casa, fa carità, un aggaglio, per carità. Poi ho aperto i vetri, ho aperto e mi stava già facendo male, non ho buono di un vatto, già raddutto, meglio sudare che soffrire, che tossire. Vabbè, vuol dire aspetteremo anche, ma sai cos'è, perché adesso è arrivato di colpo il caldo, ma poi magari ci ambientiamo e dunque va bene, anche se fa più forte. Comunque, avanti Tony. Ma noi a te il caldo fa bene, perché sei arrivato di nuovo a segnare che arriva una volta, 9:10. Ma lui, se continua a chiamare antenna stai offendendo le antenne. Chi sono? Non è un'antenna, è un ruccio. O giù, se vedi l'antenna Emanuele ti muore di. E poi quando mi devo curare lì, non sarà un'antenna, sarà un antennino. Ma no, comunque Emanuele, beh, per migliorarla questa antenna, effettiva, fatela fare da Luca, che vanno molto bene, vanno, e costano anche poco, per cui riesci anche molto bene. Va bene, dai, quello ci pensi tu. Gianni, sei rientrato? No, non è rientrato, no. Capito, oh Manuè, fatela fare la Luca, che gli fa bene le fare antenne, e così sei tranquillo, ce l'hai vicino e tutto. Ah, ho capito. E vabbè, se manda un prestito in banca, lo devo metti via. Beh, andatoni così. E lei sopravvutato alla finale. Andava. E vabbè, dai, anche lui piano piano già si attrizza. Eh beh, certo, non è che ci sia tutta questa fretta, no? Ma comunque, mi si è considerato che è ritornato in frequenza fra di noi e ci piacerebbe ascoltarlo proprio con impeto furioso, vero Manuele? E poi magari quando vai all'antenna con te si tocca, ti dimmo a baciarla. Attoni, te le immagini. Poi magari le diciamo, ah, bacia un po' carino, Manuè. Ah, veramente. Lucia! Aspetta, sotto il balcone, no? Non sapevi cosa va a Lugano. Lucia. Anche il cane sta facendo modulare. Anche lui ha la passione della radio. Manuè, puoi valutare molto lento, inteso, dai. Si vede che l'ha dato un po' di bistecchi, io gliel'ha dato. Ah, bene, dai, bistecchi, tu lì, che tu cavi. Vabbè, dai, Gianni, sei rientrato. Ma si desidera che tu Gianni, io, boh, non lo so qui. Natalino e Gianni, tutti e due si fanno desiderare. Oi, Natalino, tornato sì. No, ne manchè dove tornato, vabbè. Buona passeggiata a tutti e due. Avanti Tonino pure passeggiani, con un gatto. Avanti Emanuele. Ha fatto bene andare a controllare, già lo credo. Se no il cane che motivo aveva di abbaiare, sicuramente c'era motivo, no? Per cui ha fatto bene che è andato a controllare, e lo grido, poi specialmente lì dove abita lui, non ci sa mai, o si è via di la zingara, con un saccapanno, vero è, oh Manuè? No, niente, è possibile qualche emergenza. Tanto di cancello elettronico, telecamera e poi c'è un bel aggiro nell'armadio, non penso sarebbe nessuno tra i nonchi. Lo so, no, ma dico, se il cane ha abbaiato c'era pure un motivo, Tony. Evidentemente ha notato qualcosa che di anormale, insomma, ecco, che non è usuale dove abiti tu. No, allora, anche se passa il mio vicino, Filippo è proprio cacciatore tra l'altro, passa in macchina e moto, lui abbaia sempre, chiunque passa abbaia. Noi siamo tante villette, capito? Quindi io sono molto un po' all'interno, da Cancellotti a casa mia, non c'è problema. Con me ormai c'è un buco in basso alla mocca. Vabbè, grazie un bacio, quindi del vicinato vuol dire il cane abbaia e li sta salutando. È un cane lucato allora quello, vero Manuè? Chi te lo ripiglia? Allora io ne ho due, oh, Giulio, il bassotto è questo piccolino che abbaia stesso, sono due sorelline praticamente, e molte volte la abbaia per giocare, chi te non ha gana, il bassotto è più docile, capito, non ha gana, e allora il problema è la abbaia, penso un po'. Ho capito, vabbè, bene. Io ragione, le zinco è 17 minuti, 17, due volte 17 è 8 minuti. No, io ho le 6 meno un quarto. Allora, Allora, è percorsa, sta ballando, vuol dire che è mancata per un attimo la luce qua. Poi magari se, quando è ritornata la luce si è rimessa in funzione, hai ragione. Adesso guardo il telefonino e lo metto a punto, l'orologio che c'è sul comò qua. Io lì non trovo niente, le orologi tutte a batteria, tanto si ferma, c'è la batteria, c'è a puzzo. Sì, poi è mancata un po' la corrente, Giulio, anche qua, perché mi si è accesa la lampada d'emergenza, quella lampadina che ho messo al muro, quindi per eventuale evenienza io poi campagna l'ho messa, ne ho due lampade d'emergenza, questa è cosa mia. Ma mi sono riposato a voi pranzo, mi sono svegliato poco fa, ci credi che non ho giocato neanche 10? Magari ancora sia un po' sonnato, perché succede che un fisico quando si sveglia magari ha bisogno di un po' di tempo per riprendersi alla grande. Sì, adesso l'ho messo a punto l'orologio, 17:48 minuti, praticamente manco 12 minuti più o meno, l'ho preso dal telefonino l'orario. 17:49 adesso, sì. Sì, adesso è 49, sì. Ma c'è un bando. Vabbè, tanto è la sveglia digitale che c'è qua sul comò. Però se manca la luce chiaramente si ferma, poi quando ritorna riparte. E io non me ne sono accorto che l'orario era cambiato, cioè che non era giusto. Va bene, dai, andate così. Vediamo se è rientrato Gianni. Gianni, o si è addormentato? Gianni, vieni, la bandiera vanno. Si sta nella strada Usuri e buco. No, si stanno telefonando, dai. Gianni con Manuele. Ah, così è, facendo l'amore stanno, al telefono, ho capito. È gatto male. E che non si attacca al telefono, Gianni non ha più in più, specie delle femmine. Ah, ma direi che mi vuoi dire che c'è la medusa? La testa è solo parlare. Uia. Vabbè, dai che muro fa, che già è una brava persona Gianni. Ma non conosco la vita che ha Gianni. Manuel è pure il mio figliuccio, ho fatto il conto. Anch'io lo conosco da sempre, si può dire, sia a Gianni che a Manuele. Capita, lo so io. Manuele è lo nipote di mio cugino, ti puoi immaginare, perché nipote acquisito però, perché il padre era il cognato di mio cugino, sì, che ti puoi immaginare, lo conosce a Manuele, la candela minoreddu. Pensa che il mio compare era buon'anima di Angelo, era bello, io trovavo tutte le scuole di Sassari, le superiori, alle Pia, e lo vedevo quando andavo lì a fare dei trabacchi, lo vedevo lì. Sì, beh certo, e già lo so, era anche, e io mi ricordo anche quando faceva il pugile, era anche un buon pugile, dunque era in gamba, ecco, no, era una persona abbastanza bravo, soprattutto bravo, ed era anche abbastanza di scuola, di scuola pugilistica, voglio dire. Cappa, lo fermo mille per mille. E poi c'è stata prima lui, poi c'è andato via mia comare, poverino. E poi anche Raffaele, anche lui. Me l'ha detto Manuele l'altro giorno, me l'ha detto che anche Raffaele un paio d'anni fa se n'è andato. Io già l'avevo saputo dopo almeno un mesetto buono. Non mi ricordo che me l'avesse detto che era morto anche Raffaele. Purtroppo la vita è crudele, Ottorino, la vita è crudele. Sappiamo quando nasciamo, ma non sappiamo quando ce ne andiamo, quello non lo sappiamo. Improvvisamente, di punto in bianco, uno vede più, da oggi a domani, così è brutto. E infatti l'ho sgridato perché tu potevi telefonarmi a avvisarmi, perché l'ho saputo dopo tanto io stesso. E poi ero tranquillo perché l'avevo visto Raffaele alla cola per la voce, alla cassa, l'ho salutato, tutto ok, sì. E poi per mesi e mesi io non l'ho più sentito né visto, e poi mi sento dire che è andato a mancare, porca miseria, vabbè. La vita è questa, Giulio, oggi vi siamo infatti e domani non si sa, per quello comportiamoci bene con tutti, inutili che anche via Brianchi del dato come va la pena. È vero, è vero. Buonasera. Buonasera, sì, beh certo, certo, ma è così, in effetti è così, io ho Tonì. Cosa mi fai a arrabbiarti? Non serve a niente. Anzi, è da persone poco intelligenti, secondo me. Comunque, la vita è quella e d'altronde dobbiamo accettare tutto quello che ci succede e tutto quello che ci rimane. Cosa vuoi che ti dia? Avanti, la buonasera. E Gianni, sono sempre, ho cambiato apparato, stavo facendo un lavoretto e voglio vedere come sta uscendo questo apparato di radio, dai. Vediamo un pochino. Emanuele, questo qui è il Cobra. Vai. Mamma, sono sicuro che esce bene. Questo è il Proxel che ti stavo dicendo, però la verità c'ha la capsula di un altro, non so di che cosa, l'ho buscata nella scatoletta che c'avevo e magari di citofono o di telefono. È una capsula di quelle buone, dai, comunque. Andare Gianni, hai fatto un lavoretto al baracchino, al microfono, a che lavori qui fai? Sì, ma solo alle donne, a te no. Non ha già bisogno di, non preoccuparti. Oh Giulio, è teso. Ma cosa lavoretti? Ormai non funziona più. Non lo sai che dopo gli anta qualche volta si incanta? No, Natalia, è qua che ho preso la conferma io, c'ho oltre gli anta. Toccare per credere. Già te lo faccio toccare, da. No, tu toccare a me per credere. Tu toccare a me. Gianni, immagina, adesso voglio dire che fai il seco affrido. Ma riporta l'immagine, questo Tonino, questo Gianni. No. Ma, ho già, intendo cosa dicendo. E già lo sa che non è così, Natalino, che già mi frequenta e già sa tutto quanto, quindi... già lo sa che non è così, dice da buffonendi. Adesso perché si vuole trovare compagnia, perché a lui non gli hai addito la ghichia. A noi si piace un gnogno. E purtroppo cazzo a me non mi funziona, capito? Ormai non funziona più. Natali, questo non te lo so dire, non ci vivo con te per saperlo, quindi può assicurare che tu ti piglia che viagra. Ma me l'ha detto la moglie che non mi funziona. Non ha più bisogno, no, grazie a Dio. Non è che prendiamo fare qualcuna di legna, ma è casolo. E palla Gianni giù. E stanno seguendo su mandato battimenti. In Mogano va via. Che te è Mogano, come vengono di tua uli. Gianni, e muore, non me ne ti va. Quanto siete monellica. Uomo, ognuno si tenga un suo, io e a me te sono le femmine, a voi. Soia, non è possibile. Canto siete mari, bisogna venire. Canto siete mari, ve lo dico così, chiaro, chiaro, chiaro. Tony, cosa ne dici tu? Pezzine bisogne. La bocca, per difenderti te le devi togliere. Pezzine bisogne sono giù. Ragazzi uccelli, sì, in italiano. Gianni, ragazzi uccelli. Antonino, come mi ascolti con questo microfono di segnale? Guarda, 1, 2, 3, prova. A me arrivi sempre bene. Ringrazio. Grazie. Poi ti pago a fine mese. Calma. Mi dà un giro del caruccio belluccio che c'hai. Cosa? Un giro di Tyson. Yeah. No, chi sono? Ma lo sai che il 980 ha dato numeri? Si è messo a camminare, il manco detto l'avevo che avevano risolto quel problema, si è messo a camminare il frequenzimetro correndo, proprio girava da sopra. A me non lo fa mai. Come mai? Un frequenzimetro a cronometro mai? Quindi ho parlato di frequentimetro. No, questo qua camminava, dopo l'ho spento e si è ripreso. A cronometro ce l'avevi Gianni? Esatto. Comunque Giulio. Dimmi, Tony. Io non ti conoscevo comunque, mi ha fatto piacere conoscerti. Anche a me, Tony, ci mancherebbe, vorrei vedere. Anche i ragazzi uccisi siamo persone serie noi. Già lo credo che... Sì, quel Gianni è il ragazzo uccello, quel Manuele mio. Ora con Gianni vi dà, mamma mia. Non svegliate il cane che dorme. Manuele lo conosce la grande la minore, figurate un po' così non lo conosce. Avare una montagna all'uomo, è una montagna di uomo. Prima era un piccoletto, avare una montagna di uomo. Anche io gioco vicinito Giulio, mi chiama in mezzo sega. Ma lei sta cercando di farmi l'amico, lui non vuole diventare amico mio. E come mai? Perché non ti dà il baracchino che vuoi tu? Allora. Capita, mi sa, adesso anche tu. Lasciatelo godere un po' di tempo, poi lascia che ti stufa e poi tornerà. Siamo tutti delicati, mi Giulio. Cosa hai detto, Tony? Siamo tutti piccoli e delicati. Sì, è piccolino, tu sei piccolino, forse di quando eri nato sei piccolino, ma adesso non molto, adesso sei un grandissimo. Vabbè. Manuele. Lino è cresciutello. Manuele, domani mattina lo facciamo? Forte, però non è chiara, non lo so, la sento citofoni. Ehi ragazzo, lei vuoi chiamare anche su microfono? Allora, basta andare da Fusale e comprarla una. Ma sai, se no basta andare al mercatino delle Pucci e comprare un paio di quei telefoni bianchi, se ce ne sono ancora, io devo comprarti lì. E se no, basta la galla così e andavano a testa. Bello, Tony. E allora, se no, suca tutti gli anni. Scusi, lei ha un telefono simile, quei bianchi. Dice sì, vuoi fare un attimino? Mi ha smonti dal cazzo, ok, grazie, arrivederci. Tutti cantusetti mali. Ma io ce n'avevo bisogno, che se vuole andare a puscolare il telefono, me lo posso dare io. Se lo posso dare, Nagio mi pare 4 o 5, Nagio, cornetti. Cornetti di telefono di chi già tastiera, dici bianchi. E proprio di chi si vive uno? Beh, se la vuole una, no, che problemi c'è? Anzi, se ne vuole lui, ne occupo lui. Figurati se io penso a quello. Gianni, la vuoi la capsula del telefono? Se me l'avevi promessa, tu non me l'hai mai data. Giulio, me la dai una a me. Anche una a te, perché no? Mi sembra che ne ho 4, se ricordo bene ne ho 4. Certo, non è un problema, già. Ascolta, facciamo così. Io, appena che io salgo a Sassari, casomai poi te lo dico, o vieni a trovarmi, oppure te la lascio da Davide, tu vai che da ritiri, ti lascio tutta la cornetta intera io, va bene? Va bene, non c'è problema. Infatti il numero di Davide ce l'ho, lo chiamo prima per scegliere la sciatta. E Davide chi è giù? Quello del negozio accanto, quello dell'arca, arca di Noè, degli acquari eccetera eccetera, degli animali insomma. Lasciali anche quella parte mia a Gianni, così poi poi ci vediamo e me lo prendo direttamente. Si può anche fare, allora ne lascio due, io la prima uscita che faccio, sto uscendo poco, però la prima uscita che faccio, di nuovo già, prendo e te ne lascio due lì da Davide, poi tu li ritiri e poi magari la passi a Tonino, ok? Io ti ringrazio, grazie. Ti ringrazio per la disponibilità. E figurati già, che problemi ci sono, ci mancherebbe. Ripeto, te l'avevo promessa anche l'altra volta, no? Non è un problema. Io ti lascio la cornetta intera e poi ti arrangi. La apri, la fai, se ti va bene la usi, se non ti va bene ci sarà un cassone della Mondetta dalle parti di casa tua. Se fai come credi. Oh, già la tolgo io, non ti preoccupare, perché non c'è nessun problema. Quello mi arrangio io, la tolgo e dopo ti rampo la carcassa, ti rampo nella plastica. Certo, vai così infatti. Bisogna essere corretti nella plastica, se no se vado a pagare troppo lattari, troppo gara diventa, e abbassa che pago 450 euro l'anno, pago io di tassa Mondezza, e non mi pare che so poco. Avanti Tonino. Io 133, ma pagato anche 300 e passa, quasi come Giulio. Poi un anno mi hanno mandato una bolletta a zero, perché mi stavano facendo pagare la bolletta per quattro persone, e invece io sono da solo. E sono andato a protestare, e gli ho detto che io adesso ero da solo, quindi devo pagare la bolletta per una persona, non per quattro. E mi hanno detto, allora questa qua se la ritroverà a zero, e così è stato. Sì, ma è così, tu pensa che quando io ho chiuso l'attività, già, sono andato e gli ho detto, guarda, così e così, e allora ascolti, per non pagare più deve svuotare completamente il locale e poi deve far staccare anche il contatore della corrente elettrica. E anche quella dell'utenza dell'acqua, se ce l'ha, mi hanno detto. Ma io non sto più lavorando. Sì, sì, ma per non pagare più la tassa mondezza, dice deve fare queste cose, perché se no devo continuare a pagarla tutto lì, Gianni. Dunque, vedi bene, e io pago anche per il locale di Sassari. Vabbè, per l'altro appartamento già sono pagato in colino, non mi interessa, ma io pago qua, pago quello del magazzino, eccetera. E dunque vi dà ragione. Scusa, ma tua figlia non fa la mondezza che facevi tu in falegnameria? Tua figlia, cosa di buono, due pezzi di papiro nel cestino, non può fare la mondezza che facevi tu. Ma non è a quantità, no, ho già, è a metro quadrato, la tassa si paga a metro quadrato, in base ai metri quadrati, per cui non c'entra niente, se per quello mia figlia la usa una volta ogni tanto, quel locale lì, per il semplice motivo che l'ufficio ce l'ha anche a casa, dunque principalmente lavora qua, e lì lo utilizza solo quando deve fare delle riunioni di lavoro e basta, ma niente di più, se no non lo usa mai, quasi mai, nonostante che c'è tutto, c'è la corrente elettrica, c'è il telefono, c'è la DSL, c'è tutto, però per dire, no, è così già, vai tu e appellala, vai e dillo tu ai nostri amministratori e fai di questo ragionamento, ti dicono svolti il locale, tocca il contatore e poi vedrà che non lo parla più, così ti rispondono. Vabbè. Comunque anche in base ai componenti familiari, perché a me mi hanno abbassato la cifra dopo che io ho protestato, lo sai perché ho protestato? Perché mi risultava che io un anno non avevo pagato la tassa mondezza, mentre invece io l'ho pagata. Meno male che io sono bello ordinato, ho preso la cartella, ho controllato e l'ho trovata subito, perché era dell'anno precedente. Ho perso una giornata di lavoro, questo me lo ricordo, però quando sono andato ho fatto le mie rimostranze, vi ho detto anche, oltretutto non solo di aver pagato la tassa, io adesso sto pagando anche di più, perché sto pagando per quattro persone quando sono da solo, quindi io faccio meno mondezza di quattro persone. E mi ha detto, sì è così, allora facciamo così. Mi ha detto, perché c'ha qualche foglio, vabbè, mi ha chiesto fogli documentazione, io ho preso, gliel'ho presentata e mi ha detto sì, ha fatto le fotocopie, praticamente l'anno successivo mi è arrivata a zero la tassa mondiale.